Marco. Sì, io sto cucinando. Oggi ho fatto tardi, d'altronde ho fatto colazione a mezzogiorno e un quarto. E quindi mangiavo un po' più tardi oggi. Vabbè, come va? Hai visto, la giornata non è un granché. Noi speravamo di andare in campagna, però tra vento e cielo velato non ne vale la pena, dai. Sì, io stamattina sono uscito sino, diciamo, intorno all'una meno un quarto. Diciamo, non si sta male come temperatura, solo che è un po' fastidioso il vento, secondo dove ti metti, insomma, dà anche fastidio. Se sei al riparo invece si sta abbastanza bene. Sono uscito un po' da Conforama con mia moglie a farci un giretto, a vedere un po' di cose per la casa, eccetera, e poi abbiamo fatto anche una passeggiatina, eccetera, e poi siamo rientrati a pranzo. Poco fa mi sono fatto il caffè e niente, passando un po' la serata. Oggi sono di riposo, rientro domani sera, per cui eccomi qua. Vai Marco. Adesso è presto, poi probabilmente entrerà qualcuno, dai. Cappa, questo è un CRT Mega Pro, è di tipo di quelli piccoliti, tipo omologato, c'ha qualche funzione aggiuntiva in più. Come ti dicevo l'altro giorno, c'ha anche i subtoni digitali analogici per fare comunicazioni esclusive con un'altra stazione. Cappa, c'ha gli stessi bip del tuo peraltro. Dimmi com'è la modulazione, dovrebbe essere un po' più acuta del normale, il microfono è a condensatore, mi dicevano qualcuno che era un pochino acuta, però se mi dici che è passabile, vedi un po'? Ah, secondo me è passabilissima, la voce è chiara, diciamo rimane un po' più sottile il tono di voce, più penetrante, però è, diciamo, accettabile, non è che stona oppure che dà fastidio, niente del genere. Si vede che è diversa dalle altre, ma magari può dipendere un po' dal microfono, eccetera, però va, secondo me, da 0 a 10, 9 glieli do, capito, per capirci. Cappa, sì, e quello è il punto, è un po' più acuta, un po' più sottile, come l'hai definita tu, dai. Qui sto parlando vicino, questo però è il bello che in macchina te lo poggi sulle gambe, tipo così, guarda, così all'altezza delle ginocchia, sto parlando col tono di voce normale, e mi sentivano quasi come che ce l'avessi vicino alla bocca, allora così sul ginocchio e così vicino, dimmi tu, il bip uguale al tuo, l'ho regolato uguale al tuo. Sì, esatto, già carino questo bip, dai, non perché è veloce, diciamo, anche se sono tre toni, però già chiude velocemente. Sì, secondo me più di tre, sembrano tipo 4 o 5, però sono talmente rapidi che non riesci a contarli nemmeno. Cappa. Infatti mi avevo preso lo smartphone adesso, poco prima che chiamassi tu, perché dovevo riscaricare le istruzioni e guardare bene come si usano certe opzioni, perché non me le ricordo al volo, sono delle voci in menu che non mi sono familiari, tutta roba strana e che non è che si usa. Addirittura questo ha la tastiera, ha i tasti tipo telefono, no, illuminati, sembra quasi un microfono di un apparato B-banda, VHF-VHF, invece per la CB. Quale modello è questo della CRT? Allora, CRT Mega Pro, CRT Mega Pro. E dopo me lo guardo a vedere com'è, quali sono le caratteristiche. Beh, è solo AM/FM, vero Marco? Sì, questo sì, AM/FM, piatto, un po' lungo, però è piatto almeno. È programmabile, volendo di più fare tanti canali, anche se i canali alti, se non hai l'SSB, alla fine te ne fai, vabbè, ben poco, dai, più che altro i canali alti per la tripla 5 e dintorni, no? Per stare, cioè, in AM/FM tanto vale stare su 40K. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10, avanti. Sono tutti a festeggiare, tutti in piletta, tutti sull'isola privata, con gli yacht, con gli aerei privati, come dico sempre. Ma cosa stai dicendo? Con la buonasera. Ciao T. Ho detto, vabbè, magari qualcuno così dico c'è il 27, ma uno sì, in realtà, anche l'adiamatore, lui già, certe cose magari le può fare. Ciao Tino, c'è il compagno di Carlo, io stavo tentando di far bollire l'acqua che non bolle mai, adesso do l'occhiata. Vai Carlo per Tino. Sì, buonasera Tino. Mi facendo quattro chiacchiere con Marco, adesso per caso ho fatto due colpi di portante, lui ha riconosciuto sia il segnale che il bip e quindi mi ha risposto subito. E a dire la verità ero a casa, ero fuori in terrazzino, prima raschiando un po' di cemento che hanno lasciato i muratori, però giusto una mezz'oretta, e quindi sono rientrato e avevo la radio accesa ed eccoci qua. Vabbè, oggi è giornata di festa, quindi c'è poca gente in giro e per la radio. Ma guarda, io sinceramente sto andando a divanare perché ho visto una portante e niente, sono entrato a salutare più che altro. Ehi, non ti preoccupare, tanto anche Marco è in procinto di mangiarsi qualcosa, per cui magari ci sentiamo anche più tardi se coincide. Va bene, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao. Ciao Tino, ciao. Prossimamente, dai. Marco, ci sei ancora? Sì, ho detto, ma è il regalo, non me l'avete portato, no? E quale regalo vuoi? E caspita, oggi è San Marco, è un regalino, è dovuto. Ah, giusto, la festa della liberazione, ci dimentichiamo del santo, perché non sembra, diciamo, una festa quasi della Chiesa, ma diciamo della liberazione, patriotti e quant'altro. In effetti è San Marco. Allora, auguri Marco, auguroni, Eia, è il regalo solido, fisico, vabbè, però, è qualcosa di tangibile, Tino. Sì, vabbè, ai tempi miei si usava basta il tempensiero. Eia, va bene, adesso do un'occhiata all'acqua, vediamo se bolle, sennò qua non mangiamo più oggi. C'è anche un bel ricorrente, ho dovuto rigirare tutto perché con questi gatti tra mangimi e pupue, certe volte, per carità, siamo una stalla. E vabbè, e quindi c'è un vento, qua sta volando tutto. Va bene Tino, buona, come è, divanata, sì, io sono già sul divano e praticamente incorporato, mangio qui e mi abbiocco qua direttamente dopo. Cappa, buona divanata e sentiamo. Vai Carlo, tolgo il bip perché mi sta ubriacando, tu non lo senti il tuo, ma io lo sento il mio, sento il tuo e il mio, perché qua c'è un po' di monitor. Sì, sì, Eia, va bene, anch'io mi metto a fare qualcosa di, diciamo, di utile, dai, per la casa, nel caso ci sentiamo dopo, dai, così mangi tranquillo Marco, già lascio tutto acceso, mi sposto un attimo fuori in terrazzo e poi magari tra una mezz'ora vedo un po' se c'è qualcuno e se vuoi entrare già ci sono io in radio. Ciao di nuovo Tino, ci sentiamo più tardi Marco, buona serata. Eia, ciao ciao a tutti. Ciao ciao. Ora attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Ciao Gianni, non parli, eh? Non parli, doppio lui. Ciao Luca, no, avevo già girato perché non rispondevo a nessuno e poi adesso è tornato. Vabbè già, sono tutto il giorno a casa, ma che cazzo ho fatto con la Susi? Poi la giornata, io avevo in mente di andare a farmi un giro oggi, ma ho visto la giornata e non mi ha dato molta fiducia. Sono andato che sta per piovere, erano così belle i giorni scorsi le giornate. Lo so, ma sì, l'avevo lasciato già. Cosa? Ma ti sei di nuovo lasciato? Ehi, me lo manda, No, ce l'ho proprio mandata, non è che mi sono lasciato, ce l'ho proprio mandata, le ho fatto prendere tutta la roba e se n'è andata. Quando hanno lui? Ti hanno baciato una cura già, di merda, guarda. Oh, io per carità. Questo cazzo di pomata che devi inserire dentro il naso per tenere il naso lubrificato. Cazzi. C'è la tua GPD ancora. E io penso, guarda, avevo la roba lì, basta, le pomate, penso altre. C'è una altre tre. Forse mi bastano neanche. Ci vogliono 60 euro, buon lavoro di pomate. tutte e due, non basta. No. Tre. Su casino è già. Vabbè, comunque. Faccio, ho visto un video già. Una ragazza gli aveva levato queste plastiche dal naso. Gli ha rimosso. Ora, boh, speriamo che faccia l'anestesia, perché così, cazzo, cioè senza niente, sarà difficile. Ascolta, ma perché ancora nel naso ce n'è queste placche qua? Le plastiche, sì, sì. Quelle lì servono praticamente per tenere il setto, per calcificarsi bene, hai capito? È una sorta di ingessatura, sì, lo so. Ascolta, ma la parina si sta facendo o no? Cosa? L'eparina la stai facendo? No, c'è bisogno, che sto camminando, mica sono allettato. No, entra. No, non me ne ha detto di l'eparina. Vediamo, c'è bisogno. Non è perché si è allettato, non è l'eparina, non serve perché si è allettato lui. Serve per le infezioni, dopo che fa le operazioni, capito? Quella lì, vabbè, se non te l'ha detto vuol dire che non ci vuole. Sì. Mi fa male adesso, vabbè, preso. Ho preso il coso, l'antidolorifico, come una mal di gambo, sono riposato un altro po'. Sei dato, cosa cazzo fai già? Nulla, fai nulla. Cazzo, ho consumato già 20 rotoli di carta igienica. Minchia. Tanti soldi vanno. Tanto i soldi lì, infatti, i soldi vanno e boh. Ehi, non ti furugia, amico. Non metterci nulla dentro al naso, io oltre le pomate. No, già, adesso le vado quello che ne scende, no. Qua non posso entrare niente. Spero che vi fa male. Vabbè, ma comunque quelle placchette in plastica sono messe esternamente, non sono interne. No, sono interne già. Mica c'ho la struttura esterna, interne. Cazzarola. E quindi si devono riaprire. Come faccio? No, praticamente sono penso, perché ho visto ci sono dei punti anche. No, vabbè, i punti ci sono perché loro hanno aperto per addrizzare il setto nasale, per togliere i pulpiti, hanno dovuto aprire, quindi i punti te l'hanno messi per quello. Uguali alle mie. Chi è? Marco, c'è una radio diversa. Uguali già a quelle che ha detto Luca, si chiamano Plastifix e sono lunghe roba di 10 cm, fino al cervello ti arrivano. E come ha detto Luca c'è una sutura, su un punto di sutura anche. No, ma quando levano non è che faccia male, sì, ti dilatano un po' la narice, però è sopportabilissimo. Ma te ne l'hanno tolte, ma? Sì, io quando sono tornato a Sassari ce le avevo, le dovevo tenere 8 giorni, dopodiché non le tolleravo più, però quando te le tolgono è una liberazione, perché respiri meglio, eccetera. Marco, ciao Marco, ma a te quando, tu c'avevi i tamponi, giusto? Allora ti spiego, da me i tamponi li hanno tolti 48 ore dopo in ospedale, e lo stesso mezzo metro di tampone, una cosa allucinante, invece quelle le devo tenere per 7 giorni dalla dimissione, mi pare 7-8 giorni, e non ne potevo più, Luca, perché mi falsava anche allora non sentivo gli odori, però un giorno uscendo sentivo questo odore di smalto per unghie forte, in realtà non c'era, erano le papille le cose sensibili dell'olfatto che erano un po' sballate per questa roba nel naso. E sono lunghe, mi devi vedere quando le levano. Sì, però vabbè, ma a parte questa roba, questo tampone lungo che ti hanno levato anche a me, il mio era lungo, guarda, abbastanza lungo, tipo forse 10 cm. Però come ha tirato, la verità, mi ha scombussato tutto dal cervello a nausea e quant'altro. E beh, Luca, un po' lo fa, conta che è una cosa che arriva bella fino in fondo, le piastrine meno, un po' meno fastidio le piastrine. Vabbè, tutto di niente, sì, un po' fastidio quando le sfilano, ma niente di che, Luca. E sono di plastica trasparente, almeno le mie erano trasparenti. Sì, ho visto il video, sono trasparenti, sì, confermo. Vabbè, cosa vuoi fare? Lavorando, sì. Quanto le devi tenere, Luca, queste plastiche? Allora, devo continuare la cura fino a giovedì, vabbè. Ci voglio la visita alle 18:15. E poi, ma questo giovedì o il prossimo? No, giovedì già. Il 27. Alle ore 18:15, devo essere lì. Da dottor Nikos, dottoria di Voiatra. Non me lo dire. Sì, Nikos, ma ho parlato, ma che a te? Sì, sì. Ricordavo il nome greco, ma non mi veniva. Probabilmente lui. È un tipo alto, un bestione. Anche giovane, diciamo non è di quelli anziani, è giovane come medico, ogni pezzo d'uomo. Esatto, Nikos, alto, giovane, capelli lunghi, è lui, sì, sì, sì, è greco, è greco. E lui è il, quello dei nasi. Il nasologo. Nasologo, non mi fa ridere, cazzo, non riesco a ridere neanche. Ma quei denti mi si vede quando rido, cazzo. E vabbè, che qua sono un po' gonfio qua. E anche questa struttura qua un po' ti porta su, cioè non lo so se ti porta su o giù le labbra, comunque. Dai. Speriamo bene. E per esempio, dimmi che portate a fare la pipì, Gianni, ripeti. Via. K. Marco, ma tu a parte questa qui era un'altra operazione che hai fatto qua a Sassari, l'hai fatta tu? No, già a Milano. A Milano, ed era la stessa operazione. Diciamo che lì il setto nasale era anche storto, cioè il naso storto proprio, diciamo l'hanno raddrizzato. Già che c'erano, hanno messo il ponteggio lì dentro, capito? Ad addrizzare un po' di la questione. Perché non addrizzava più? No, ma per quello, ormai si sono arresi, è per quello. No, cosa ti volevo dire, a parte gli scherzi, quindi lo stesso dottore operava anche a Milano? No, allora questo, diciamo, fa cose minori, questo Mikos, questo rimuove quelle cose lì, fa visite al naso, al setto nasale. Non è chirurgo di Milano, è un'altra cosa già. No, Nikos fa gli interventi. Nikos fa gli interventi. Oh, proprio chirurgo, eh. Beh, secondo te? Opera lui. Chi è questo qua? Allora, ho preso la narice destra, era quello lungo, quando ha tirato, sei pronto? Mamma mia, ricordamolo Gianni. Praticamente come se me l'avesse levato la, come si dice, la come si dice, la, diciamo, più forza, l'energia, come se mi aveva attaccato la corrente, cazzo, sono crollato come è una debolezza quella, che come stai a letto il sangue glu, mamma mia. È un riflesso vagale, sarà, non saprei. Ti sento lo sottofondo dalle voci, ne senti? Sì, sentivo, non che parlavamo ma non capivo la lingua. Com'è questa modulazione? Dovrebbe essere più fina, ma ha già detto Carlo, è ma malvagia o passabile? No, è buona, dai, è buona. Sì, è più fina dell'altra, più rimane più soft. Arrivo. A portare all'una, a Dea, cioè non a Luna, lui. Luna era l'altra. È vero, Luna era l'altra cagnolina. Questa, non mi ricordo il nome di questa. Dea, ah, ok. E sono quasi uguali, Luna con Dea, sono quasi uguali. E ha scelto lo stesso tipo di cane, magari anche stessa razza. Cappa, prova, vabbè, qua non vedo niente. Non fa nemmeno da modulometro questo. Questo che apparato è? CRT Mega Pro, omologhi. Piatto, piccolo, è quello che ha il microfono con i tasti illuminati, tipo bibanda. Ah, capito. Sempre questi tecnologici prendi tu. E questa va delle cosette in più che mi interessavano. E poi si useranno mai, no? Poco o niente si useranno. L'ho dovuto ordinare dalla Francia perché in Italia non lo trovavi, non c'era, non era di interesse, capito? Non lo portavano. L'ho ordinato dalla Francia e costava meno che da altri negozi in Europa. Proprio ordinato dalla CRT France. Beh, ma già va bene, dai. Ah, su quanti ne hai? Siamo parecchi. E boh, già, è la stessa domanda che mi avete fatto l'altro giorno. Non contare, non li conto, me ne dimentico sempre qualcuno, però più di 10 penso. Ma certi sono cavolate MFM, così roba proprio omologata che non vale lo schiaffo. Quelli più interessanti sono quelli con le bande laterali, capito? Io ne ho 5, c'erano tutte le bande laterali. Tutte e 5 hanno le bande laterali. Ma tu ce l'hai ancora o l'avevi dato il Cobra LX EU? No, quello l'ho venduto. L'ho venduto, non ce l'ho più. Non mi piaceva come ci va in radio, boh. Ma col mic originale, vabbè. Magari non avevi trovato la coppiata anche con l'amplificato, la coppiata giusta, diciamo, dai. Quello era carino, è diverso dagli altri, vedi, perché mentre questi sono un po' tutti uguali, tipo questo, no, come tanti altri omologati piatti, quello aveva più la manopola centrale, era più esclusivo come design, capito? Sembrava un HF come design, era bello, potevi cambiare colori, avevo fatto uno scambio, nemmeno venduto l'avevo, uno scambio avevo fatto, peccato perché come estetica era bello, però non mi entusiasmava molto come usciva, ma quindi ho detto, ah, si rabbia il luce. Ci diamo già troppi di apparecchi, mi sa che anche di qua faccio un po' di man bassa, che ne ho troppi, cosa ne fai? No, non fai nulla, è per l'estetica, per l'occhio, perché mi piace vederli. Sì, praticamente sì, per non stancarsi, perché te ogni giorno quasi sto a rotazione usando un apparato diverso. Però anche in ricezione poi mi cambia le modulazioni, me ne cambia un po'. Qualcuno la sento un po' più con toni caldi, qualcuno mi dà toni più neutri, un po' piatta come ricezione, certi più acuti. Poi c'è un baracchino che ha un altoparlante un po', credo che sia nei materiali sintetico il cono dell'altoparlante, no? E gli dà un po' quella timbrica leggermente più plasticosa rispetto all'altoparlante e quello in cartoncino. Io gira che ti rigira, Marco, vado sempre sul Galaxy, boh. Ne provo tanti, sono tutti belli, sono tutti furti, tutto quanto, però il Galaxy è quello che mi piace di più, è completo, mi piace come apparecchio e in più esce bene. Eia, ma quale Galaxy? Il Saturn Echo. Ma tuttora ce l'hai, stai usando quello? E adesso cosa sto usando secondo te? Ah vabbè, esatto, no, non sapevo, già non mi ricordo quelli che ho io, gli apparati più di quelli degli altri. Sì, esatto, è bello. Poi tu avevi trovato una coppiata tempo prima, cos'era, il Sadelta, che usciva limpido effetto presenza. Ti ricordi quei periodi che ti ho detto, Gianni e Franco Binario hanno la modulazione più limpida di tutti, cioè quella che preferisco in assoluto. Perché questo non ti piace? È bello questo qua. Sì, ma è diversa la timbrica già. Tu hai presente come c'è Franco Binario con lo Shure? Ecco, così uscivi tu col Sadelta. Era di una perfezione unica, anche da M, capito? Non in FM, anche da M. Poi a qualcuno può piacere più quella timbrica, no? A qualcuno può piacere più questa che è adesso, è questione di gusti già, anche di orecchio, anche di ascolto, è questione di gusti. Quindi non si può dire, per esempio tu adesso moduli, magari a qualcuno piace di più, a qualcuno piace meno, però alla fine ci si adegua, capito? Chi ascolta si deve adeguare, se gli piace così, se no... Stava difettando quel microfono, l'ho dato via, stava difettando, l'ho messo a posto e l'ho venduto, perché quando cominciano a rompere le scatole, capito, non servirebbe. Telefono. Oh, sono tornato, 4.500. Ma quante volte lo porti il cane a Dea? Alla Dea la porto, alle 7:30 la mattina, mezzo giorno e mezza, 4:30 e molte volte, vabbè, sono fatta alle 5, dai. E boh, magari tante manco l'apporto, perché ne fa poco, lì pisce a poco. Vediamo, magari dopo le 8:30, 9:15 e poi domani mattina direttamente. Che è un bel di volte l'apporto. Già, se, perché mi devi pisciare a casa, mi è abituata così. Vabbè, che tu ce l'hai di fronte dove la porti, non è che devi fare strada e cose, la fai andare lì, no? Vabbè, com'è? A piedi, andiamo lì vicino alle scuole. Ho capito. Cazzo, invece che idea mi è uscito il nome dell'altro, lo sa. Scusa, già, cosa hai detto? E ho detto, Luca è andato a portare e poi ho detto il nome di quello che è morto invece che di dire l'idea. Luna ha detto, io dava via di là, siamo all'ottica da poco. Adesso ho visto che aumentano le temperature. E sacco di botto, cazzo. Cioè arriviamo a domani 22, aspetta, domani 22, poi 23, 26, 27. Pensa tu. Sabato, domenica 24, poi di nuovo a 20 riscendono, 50% di pioggia. Però ormai siamo in fase d'estate, ecco, diciamo così, inizia il caldo. Di caloria, è crepare di caldo, cazzo, mamma mia. A me mi fa sentire male il caldo, non ci credi? Mi fa addormentare. Lo so. Vabbè, il caldo mi butta a terra lo stesso, però vabbè, che ci vuoi fare? È pusuglio, già. È pusuglio. Ha fatto freddo, che poi freddo qua manco ne fa, ma se quello lo chiamiamo freddo, già va bene. Avanti, Marco. E si è sentato un attimino al telefono. E noi abbiamo una temperatura mite, non c'è mai questo grosso freddo anche d'inverno. Il brutto d'estate che c'è quel sole e ti cuoce proprio, prima non era così, adesso il sole è troppo caldo, ti senti bollire. Lo so. Insomma, così quest'anno al mare ci vado. Dopo la traira, Giuseppe, ma porca puttana, cazzo. Sempre mi butti, sempre, cazzo. Mamma mia, perché? Vediamo un po' se riesco. No, mi ha fregato. Adesso si va a posto. Che culo. Aspetta già, perdonami un attimo. Che mi si gira la pagina, aspetta che ho fatto un casino, l'ho fatto presto, per carità. Si gira la pagina, stavo prendendo la tastiera, tutta la pagina si gira, cioè si è messa lì spie, come? Vabbè, si può regolare. Sì, fatto. E adesso si comincia ad andare, perché non vai al mare, scusa? Io non ci devo andare perché sono dittaturori, al limite posso andare a prendermi il sole, che a me non piace stare sotto il sole, senza farmi il bagno non mi piace. Già, non lo so, vediamo cosa ne esce. E prima andavo con lì, capito? Non è che mi interessi, no? Ma ci vado, aspettiamo un po', c'ho una macchina sotto tiro. Andiamo un po', cazzo mi libero, poi c'è dei lavori da fare. Casino. Comunque sì, se entra il lavoro mi serve, lo prendo per forza. Aspetta un attimo, già. Questo è lo spray, questo è praticamente serve per tenerlo umido. Cazzo, ci peso un po' di là, porca puttana. Vedi di nasi il peso, ma qua li infila vivo, se vuoi arrivi più, si uno la via o si fa zia. Ma quella cosa di cui mi avevi parlato poi non si è fatto nulla. Di che cosa già? Illuminami. Ah, non posso illuminarti qua. Ma del lavoro lo dici? No, ancora no. Non te l'ho chiamato? No. E invece Marco da domani inizia, ha trovato lavoro. Oh, e dove? È una ditta tipo Enel, così, però c'ha la prova, dai, un giorno di prova deve fare, poi se gli piace lo prendo un fisso. A fare contratti? Non lo so di che cosa si tratta, non so di che cosa si possa trattare, però so che deve lavorare in questa ditta qua. Ho capito. E vabbè, alla fine così si fa fanno le prove, giovane Marco. E così. Io purtroppo non ho scelto un lavoro, se no magari avrei avuto qualche qualifica, ma sono sempre fregato, però vabbè. Nel mio piccolo mi sono sempre dato da fare. Perciò. Se mi mettono a fare so fare. Ma così, lui. Mamma mia, canto l'ospedale che sono. Stavo un po' riccato, non riuscivo a dormire, poi mi alzavo, passeggiavo, molte volte mi diceva una cosa che tu diventa la mascherina, immagina di piccoliami. Io ho detto, ma scusate, come faccio a mettere una mascherina? Già ho questo cavo di tamponetta, la metti sopra la bocca, come respiro? E hai ragione. E allora, cosa cazzo vuoi? Ok, era l'infermiera. E allora? È un casino, quando non c'è l'operazione al naso cosa fa? Cioè, fa la bocca, ragazzi, non ripigi più. Infatti. Se metto a passeggiare, vabbè. Speriamo che mi faccia male a levarmi questi cosi. E a te l'ho ricoverato pochi giorni, a me la prima volta 15 giorni in ospedale, la prima gamba che mi hanno operato, 15 giorni. Già, ce n'è rimasto anche un mese, che cazzo me ne frega, tanto mangiavi, bevevi, dormivi. E ma una baranoia, ma carità, a meno che tu fai amicizia con qualcuno, io vabbè, già fa vedo con tutti, quindi l'amicizia la facevo subito, e niente. Però intanto sei sempre in ospedale, sei preso a rabbia. Lo so, ha ragione, comunque ma fa che nulla. Sono stato bene da una parte, dai. Solo che mi ha dato fastidio perché uno ha detto che devo uscire lunedì e l'altro, c'è l'altro, il, come si chiama, quello che comanda. Il primario ha detto, guardi che deve andare via oggi da qua. Poi c'è il picco, mi ha detto lunedì che mi rimettono, infatti me l'ha detto. Ho detto, volta che ti rimettevano lunedì, poi c'è... avevano bisogno di posti. Capito? Vabbè. Cioè non te lo dimesso, sali con tu cura. Vabbè, ma servivano posti già. Rieccomi. Via Marco. Ecco che è tornato Marco, che stava piccionciando al telefono. No, era un amico, magari piccionciando, magari. Dicevo lui, ma a te ti ha operato Mikos? Ehia. Ah, poco compreso, ecco perché lo conoscevi, che mi ha detto alto, capelli lunghi, sì, uguale. È uguale a come me lo ricordo io. Però a me mi ha solo tolto la roba nel naso a salsa, le piastrine. E poi che altro? Ma è la prima volta, Luca, che fai l'operazione in anestesia generale? Sì. Io ci avevo fatto il callo, ma avevo operato già altre due volte per altre due cose. La penultima era per i calcoli a rene. E la prima volta nell'84 mi pare ho operato al pisello. Ah, no, questa è la prima volta per me il ricopero. Alla fine l'anestesia generale è quella totale, no? Sì, generale sarebbe la totale, come la chiamo io, la totale, no? Cioè che dormi, non ci sei praticamente. Infatti allora a me hanno fatto la preanestesia lì in camera, che mi hanno sono venuto a prendere una barella. Poi arrivo giù, ho visto tutto, arrivando giù, proprio, ero già moribondo, Poi, ho visto dei passaggi strani, macchinari, poi da lì, io non mi sono accorto di niente. Comunque l'operazione è durata un'ora. Comunque tra lì Ferraffa, io mi ricordo che sono sceso giù alle 10, sono arrivato in camera alle 3, Ma ti lasciano giù sì da quando ti riprendi, non ti portano su prima che tu ti svegli. Gianni, cosa hai detto prima? Ho detto, malgrado ti abbiano operato lì, ancora non va bene. No, non è uno scherzo, E sapete cos'è la fimosi, sì? No, spiega. Allora, quando c'hai la pelle del prepuzio abbondante, no? Praticamente che non riesci a scapocchiare, mi, poche parole. La pelle è stretta, non riesci proprio materialmente, non c'è modo. Allora lì fanno tipo circoncisione, fanno il taglietto, tagliano gli angolini in eccesso di pelle, ma poi di lusso, poi le ragazze sono rimaste contente. Ah, meglio così. No, perché quando lo dico, sempre detto, ho operato al pugile, dice, sta scherzando, poi dico, hai cambiato sesso, no? Solite cose. Ui, questo Marco, se continua così andiamo male. Beh, Natali, c'eri anche tu, io ero al telefono e mi ero sentato. Buonasera. Ecco qua, questo Marco, boh. Ciao Marco, ciao. Ciao a tutti, buonasera. L'ho acceso adesso io là. Ciao Natali. Ciao a tutti. E allora, questa parla di operazioni particolari. Quel Marco è una scena, Dice che gli hanno messo le specchie di plastica, pisello. Comunque a me la cosa più fastidiosa delle operazioni è il catetere. Ti metto il catetere per evitare di, perché appena ti svegli non sei in grado di gestire le urine, no? E quando te lo sfilano è che brucia, cacchio. A me quando me l'hanno infilato il tubicino, mi volevano infilare un tubicino più grosso di quello che ci stava, e spingeva, alla fine ho gridato, ma non lo vede che non entra. Cazzo, questa qui era la caposala, mica me lo stava mettendo. Alla fine hanno provato un altro e c'è entrato tranquillamente senza farmi male, ma te l'immagini? No, allora, a me l'hanno sempre inserito da sedato, da addormentato, no? E tolto da sveglio, però a me non piace, mi dà un fastidio quando lo sfilano, pucci. No, a me me l'hanno inserito quando ero sveglio, me l'hanno fatto per le stelle. Infatti da sveglio, guarda, fa più male metterlo che non toglierlo. Poi catetere porta infezioni, un sacco di roba, se lo tieni troppo porta infezioni. Guarda, io poi gli ospedali non li ho mai potuti vedere, sempre luoghi di sofferenza, di quando morivano parenti, non ci voglio pensare, non posso vedere gli ospedali. Non penso che possa vedere il dottore che ci lavora perché ci guadagna. Infatti il dottore ci guadagna un sacco di soldi, quanto prenderà secondo te un primario? Poverato, non è che penso che mi piaccia stare in ospedale. Vabbè. Io dicevo sempre, sono l'unico della famiglia che non sono mai stato ricoverato. Cazzo, tutti insieme mi sono venuti ricoveri. Allora, un primario prende dai 1.900 a 2.900 euro netti, a seconda delle scatti di anzianità. Cazzo. Non di chi pigliava. Non vedi che siamo il paese più morto di fame che esiste. Dove sono stati ritrovati? Allora qua dice, ai quali vanno aggiunti turni notturni o festivi, reperibilità, straordinari. Un primario non prende meno di 4.500 euro netti al mese. Che abboccia. Sicuro. Pensa che quando mia madre riprende. E vedete che io vivo con 400 euro al mese, fa caridare. Ma fa caridare, è vero. Però il primario è un professore, capito? Non è un medico qualunque. Hai capito? Sì, lo so, è specializzato, certo. Certo, ma mi sembra eccessiva la cifra, che dare 2.500 euro, mancate 4.000 euro al mese. Qua c'è quel ragazzo che è morto, che abita qui vicino, e vedete che le domande sono tante, che fa il medico, quello lì, tu devi vedere i turni che fa, poveraccio, che così che sacrificio, già mi ha morto, però è una speranza. E allora è psichiatra infantile quello lì, e fa le notti, fa tutto il giorno, sta da voi Caella sul turno 12 ore il minimo, cazzo, maio. Perché mio cognato non è lo stesso. Il cognato c'ha la reperibilità, eccetera, eccetera, fa le notti, fa il giorno, la notte, eccetera, eccetera. Tutti quei turni li fa anche mio cognato. Quando lo sta tutto il giorno, invece di 12 ore tutto il giorno proprio. Di passi che gli manca anche dottori, di passi a chi. Ed è sacrificato, poverino, mi è se ne è partito casa sua a Latina, che si deve sposare, deve andare anche mia moglie. Mia moglie però va in aereo. Ah, l'ha invitata al matrimonio? Sì, già lo grido. E lei la sposa, è dottoressa lo stesso, e sta facendo la specializzazione a Cagliari, quella lì. Sono di Latina? No, lei è di Perugia. Sono venuti qua in Sardegna. Anche quello è un sacrificio, spostarsi dalla famiglia e tutto. Purtroppo bisogna andare incontro al lavoro, il lavoro incontro a te non ci viene. Cioè non è perugiano, Pavia è di Pavia. E quindi io non ci vedo mai. E lei viene il fine settimana, quando può venire. Adesso sono partiti tutti e due a Latina, dove abita lui, che si devono sposare il 29. Il... quando è che si sposano? Quando c'è il 30? E mia moglie deve partire in aereo. Deve partire sabato, ritorna il giorno 1. Di sera tardi però, perché parte da lì alle 9, invece da qui alle 7 del mattino partono. Quando la gatta non c'è, tutti ballano, usci? Sì, una ragazza esce e l'altra entra. Ho detto, occhio che quando ritorni a abbassare la testa, mi, perché tu chi l'altro trave con le corna. Ah, sì, vabbè, là. Quanti giorni sta fuori? Il giorno 1 rientra. Ma è un luogo chiuso. Verso le 10 tornerà, là. Alle 9 parte da lì. Ma cosa ha fatto il biglietto di quelli low cost? No, il biglietto pagato, un bel. Perché Manuela viaggia lo stesso, però fa quelli low cost, li fa la prima, i biglietti, e viaggia con meno spesa. Vabbè, a trovare i biglietti low cost, chi dà riserva, andate al ritorno. E chi si dì? Secondo scenario. A te sabato e torna alla D1. E vabbè, dai, già ci sentiamo per organizzare la festa. Avanti, Marco. Ma stranamente qua in questo display c'è l'iconetta spenta del Roger Beep, però mette Roger Beep e non me la fa vedere l'icona accesa. Sto cercando di capire il perché. Ma Roger Beep adesso c'è, dovrebbe segnare. No, non me lo segna. Sto notando delle cose strane. Sicuramente queste sono cose che puoi abilitare con la programmazione. Per esempio, non mi funziona la potenza bassa, io qua dovrei poter mettere un watt e non, la funzione non è attiva, non va. E poi altre cose che non mi fa fare. Sì, sicuramente devo vedere il software di programmazione e capire se mi abilita certe funzioni, dai. Che palle, vabbè, dovrei andare al computer, vabbè, nel caso più tardi lo faccio, dai, riprendete voi, io fra poco, no, ancora è presto, il caffè, e c'è ancora quel sapore di aglio, nonostante abbia mangiato la frutta, c'è ancora il sapore di aglio in bocca. Cosa hai mangiato a pranzo, aglio? Allora, è una versione più buona della pasta aglio e olio, perché te ne mettiamo? Olio, aglio, prezzemolo, pepe nero e parmigiano, tanto parmigiano. E io poi la stracarico di aglio perché mi piace molto. E quindi ricorda, prezzemolo, aglio, olio, parmigiano e pepe nero, è un bijou già, soprattutto se carichi molto gli ingredienti. Io al posto del pepe nero avrei messo il peperoncino, perché il pepe nero non lo uso perché dice che fa male. E già, tutto male fa, l'olio fa male, vabbè, l'aglio si dice che abbia capacità benefiche, e tutto male fa già, quello che piace fa male, sembra, te l'ho detto, una punizione divina, riprendi da tali che stacco un attimo e vanno a prendere l'acqua. Fai così, metti in vista pure a Marco, mica gli hanno tagliato quell'affare e gli hanno messo le stecche di plastica, amica. No, le hanno messe per tenerlo. le stecche di plastica era per tentare di tenerlo dritto, invece non c'è stato verso. E tu ridi, mi male, tu ci cazzo. Tu ridi, non hai fame, gli so Marco. Kappa kappa, veglia, non ce ne può fare in casa dell'anno di Marco. È una scena. Ma gira, gira, adesso mi faccio il caffè, mi cavolo. Alla faccia di quel Marco, mi. Hai visto? Natalino mi, gli suggerisce una cosa, subito ti copia. Così Baracchini, quando ne vede uno, lo vuole uguale. Io c'ho papagalli che sono così. Come uguale, infatti non è uguale a nessuno di quelli che hai tu, hai capito bello bene? E poi avrei preferito farne a meno invece di creparsi il 3009, invece mi si è crepato il 3009, se no sarei rimasto a piedi. Io vabbè, già c'ho un 23 canali. Ehi vabbè, ma 3009 già la aggiusta subito, dai, si trovano subito i pezzi. È più grave del previsto. La bisogna vai un integrato, Oh, e basta! Perché i tre finali sono buoni, tutti e tre. Però forse un integrato ci vuole un apparecchio che c'ha da un'altra parte per controllarlo. Da un poco, ma allora non ti puoi azzardare a pulirsi, quando lo aggiusti non ti puoi azzardare a metterci i microfoni amplificati, se no ti fa a fare un mattersi travagli. Ma non lo so perché è partito col cazzo di Bosu. È strano, non è il microfono preamplificato che io non lo metto mai a manetta, ce l'ho a tre mia adesso, da Ticri. E io lo so, Natali, ma il fatto è che non ha accettato quel tipo di microfono, ma pace che non c'è manco il microfono, e che magari è l'input che gli ha dato, il microfono l'ha fatto partire, stava già partendo, magari era difettoso. Sì, un po' di difetti già li ha trovati. C'è il padiglione di psichiatria. Addirittura ha sospettato che non fosse nuovo perché ha visto roba che non andava fatta di fabbrica. Il Midu. C'è la piastra fuori dalla sede dove doveva essere. Figurati. Me l'ha fatto notare lui. E allora? Io gli avrei telefonato al venditore, gli avrei detto questo apparecchio non è nuovo. E prima di tutto è partito mettendogli un microfono e poi non è nuovo, c'è tutto toccato all'interno. Ma cosa vuoi ci dica già? Adesso me la faccio mettere a posto, vediamo un po' se riusciamo a metterla a posto, perché se non si trova quell'integrato si lo dirà. Ehi, non ce lo buttare. A buttare non ce lo butti, lo tiri per pestire il ricambio, magari te lo piglio preciso e te lo darebbe a pestire il ricambio. A te ci sono pezzi buoni lì, capito? Manopole, Smitter, la colonnina, il coupé, che c'è l'apparecchio è nuovo. Che strano però. Nuovo, dai, così il cielo fa ancora attaccato ai coperchi, non ha giocato manco qui, si fatti il conto, io l'avevo preso nuovo l'apparecchio. Sì, certo, però cazzo, addirittura dove c'è l'accensione lì c'è un diodo che non è il suo. Ma ti pare che in fabbrica debbano fare certe stronzate? Boh. Lui di 3009 ne ha aggiustato a bizzeffe e lo conosce come le sue tasche. Sto vedendo così, sembra che non abbia niente. Ma voi ti fate notare tutte le cose che non andano, io le ho notate perché me le ha fatte vedere lui, se no io non mi ero accorto di niente da profano. Lui era prima, le ha viste le cose che non andavano bene. Eccomi qua. Avanti, avanti. E adesso ho attaccato la Rolls Royce. Pure la Rolls Royce, vai, chissà, una testa collezionista, gatta. Questa è la Rolls Royce degli apparecchi. Kappa. Ogni tanto bisogna farlo girare, Natali. È nuovissimo questo qua, proprio nuovo di zecca. Preso da un collezionista, ce l'aveva in vetrina, poi è diventato radioamatore. Mi ha mandato tutti quelli di tutte le stazioni di base che stavano vedendo. Ne aveva un bel belle. però cazzo, come di soldi ci vogliono, non si può spendere tutti questi soldi in apparecchi. Mi ha detto, oh, guardi, io sono tutte queste qua, se gli interessa qualcuno me lo faccia sapere. Oh, l'ho pagato 250 euro, non è che l'ho pagato poco, eh. Sì, già lo so che sono apparecchi che costano. Ma devo dire, adesso qual è il punto? Che dove si vende lì Marco, tutti esatto. Quelli che ha, diventare ricco. Ma che adesso mi sto ascoltando con la colonnina, quella che ha i filtri, eccetera, quella grande. E mi sento molto bene, proprio perfetti, proprio limpidi. Io lo so, ce li ho anche io, due di quelle colonnine lì. Una ne ho come quella di Marco e una più grande. E lì l'ho modificata, quella grande, ci ho messo il DSP. E pensa che il dottor... No, io ho quella più grande che vendo, la più grande che c'è. E va molto bene. Luca, sto uscendo con la Static. Con una Static che io avevo, vabbè, non mi è cambiato filo, tutto quanto, l'ho messo a posto, là. Sì, ho capito. Che aveva il difetto che si era tutto sgretolato il cavo che c'aveva, e l'ho cambiato e l'ho messo lungo di 2 metri, se sì, mi posso girare in un letto, guarda dove mi piace. Quello? Via! E purtroppo i materiali lasciano a desiderare già. Non esiste una cosa, è proprio il cavo spaccato di netto, come hai detto tu, sembrava tagliato a taglierino. È inconcepibile, guarda. Sì, ma c'è, boh, strano, a me non me l'ha mai fatto nessun microfono con l'affare lì. Ne ho avuto un altro di apparecchio che Luca mi aveva cambiato, avevo l'attacco per quell'apparecchio lì, era particolare, quello, il portatile della Midland, quello che si mette l'attacco sotto, e c'era tutto il cavo così. Ne avevo un altro di quegli attacchi lì e gli abbiamo fatto la connessione con Luca e l'ho adattato. E poi l'avevo regalato a Bombolo, quello lì, quando stava iniziando. E a me più di uno già, più di uno. Uno appena arrivato, pochi giorni dopo, proprio una filatura netta, e lì l'ho aggiustato io col vulcanizzante. Era la guaina naturalmente, non tutto il cavo, no, era la guaina. Le guaine stanno facendo di cacca. Va bene, riprendete, vai Natali. E K, ancora non ne ho fatto caffè, dimmi tu. Avvicinato da ma... misterioso che vuole portare. Devo io bigliare un caffè. Ebbene, non è bigliare, ma diventare nervoso. Sì. Tanto non sono poco nervoso. E appunto, si sia addrizzato i capelli pure. Quando mi faceva quel difetto mi sono addrizzati i capelli brutti. Io mi sono preso il vizio di prendermi la notte, dopo che c'è non mi prendo il caffè. E lo sai che mi tiene più sveglio, non riuscivo a vedermi più un film, mi drumivo. A me manco isso, mi basi più nuda. Mi cala la palpebra, ma non ce la faccio a rimanere. Non agguanto più. Boh. Cosa vuoi ti dica? Sarà la vecchiaia già. L'altra notte fino alle 4:30 sono stato, vabbè, c'avevo roba da fare al telefono. Ho capito. Fino alle 4:30 di mattina, ragazzi, non so manco come ti ha fatto. Mi drummi sempre. Ma. Vuol dire la cosa era interessante. Diciamo più intrigante che interessante. Tu chi cazzo, sempre in chi casese. KK. E vabbè. Prendiamo della salute. Sì, la salute le gambe brutte, come diceva qualcuno. A più vicino la gente. Cazzo, questa cosa mi è trovare un albero di Natale, è poco luminoso già con questi led bianchi che gli avevo messo. E così avevo fatto con lo Smith del 3009, era bellissimo, cazzo. Bello luminoso. Perché l'avevi cambiato la lampadina allo Smith? Gli ho messo i led, quelli bianchi. Sia al rosmetro che allo Smith del 3009, ma tu devi vedere il 3009, è uno spettacolo. Lo so, io l'avevo fatto in un alimentatore che poi è finito in mano di Franco, adesso l'avevo tutto quanto ripristinato, riverniciato, rifatto, tutto il cablaggio, tutto quanto l'ho rifatto bene. l'avevo pulita all'interno, avevo cambiato le lampadine, le avevo messe come hai detto tu, e si faceva la luce bianca bianca, lui dice che gli dava fastidio, che era troppo forte e li ha tolti. No, non era fastidio, no, è poco, lo leggi bene questo. Cata. Diamond è un SX200. Quali li ha messo di LED? Quelli che vendono a strisciate? Ma a Fusaro li ho presi, con la resistenza. Cazzo, ma tu devi vedere uno spettacolo, Ma non la resistenza è corporata? La resistenza li devi mettere al, come si chiama, al LED, sennò si brucia. Natali, ci sono quelli che hanno la resistenza già loro incorporata senza mettergliela tu, e te li vendono anche su internet. Cioè, la resistenza come quelli che ho preso io ho preso un rotolo dai cinesi di questi LED, tu li tagli dove c'è l'attacco per attaccare il filo, attacchi il filo e funziona, tu li puoi mettere i metri che vuoi, capito? No, io gliel'ho messo a quello tradizionale, l'ho preso da Fusaro, le resistenze a parte, e funziona alla grande, sia quello del 3009 che quello del Rosmet. E vabbè, io ce li ho blu, ce li ho bianchi, ne ho diversi tipi, dai, però non ne ho più attaccato, li avevo messi tutti quanti, c'avevo tutto il mobiletto pieno, quando facevo modulazione notturna attaccavo qui, adesso non te la vedo. Te credo. Di questo invece non ce n'è bisogno, è bello luminoso questo apparecchio qua. Adesso li fanno anche le casse, adesso stanno facendo tutte quelle luci, tutte particolari, le casse amplificate. Ho capito. Tu non si vedia la luce soia lì sul Rosmet, ma abbiamo una luce tenue e tenue, mamma mia, poche davvero. Grappa. E vabbè, e comunque. Adesso mi metterà a mano Adriano e già te lo mette a posto, là. Ma speriamo. Ma può essere che era seguito? Che si trovi il testo e che sia quello, perché non c'è altro da controllare, ha detto, c'è solo quello e buh. Sì, no, le Maborole c'è Albino, quello lì c'ha tutti i pezzi perché c'ha apparecchi accantonati di quelli che non ha aggiustato, eccetera, che gli hanno regalato per pezzi di ricambio, ne ha di tutti i tipi. Infatti, può darsi, se non troviamo il pezzo facciamo così, perché mi dispiacerebbe buttarlo via. Al limite qua, come omologato, mi tengo il Polmar e quello lì me lo metto in macchina. Vabbè, certo. Ma io non penso che sia il microfono amplificato che l'abbia fatto partire, Natali. Mi sembra strano perché io lo sto usando col microfono amplificato e a me non mi ha dato nessun problema. Ah, nessuno ne ha dato. Tutti lo usano col microfono preamplificato, invece a me mi si è cribato di brutto. Lo usa anche Marco col microfono amplificato, è strano, è proprio strana questa cosa, sicuramente è come ti dici tu, non dibuccio di guvacchi nuovi e Brento magari è di chi si vici, l'hanno camuffato. Avanti.